Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Le Follie dell'Imperatore, film del 2000 ed è considerato il 40° classico Disney. All'inizio il progetto era stato concepito come un musical dai caratteri molto più epici, ma alla fine per motivi di tempo e soldi il progetto è stato declinato in un film d'animazione molto più comico. Infatti il film racconta le vicissitudini di Cuzco, ovvero un imperatore inca viziato ed egoista. Il film inizia con il protagonista che è deciso ad autoregalarsi un parco acquatico a tema, da costruirsi però su una collina abitata da molti contadini. Il capo di questo villaggio, Pasha, richiederà un'udienza al giovane imperatore, il quale però non vuole sapere di ritirare questo suo progetto. Ma proprio poco dopo questo incontro, Cuzco, in un tentativo di avvelenamento da parte della sua perfida ex consigliera Yzma, che lo vuole uccidere, viene erroneamente trasformato in un lama e si ritrova nel carro di Pasha che stava ritornando nel suo villaggio. Cuzco quindi chiede aiuto a Pasha per poter ritornare al castello, ma Pasha acconsente solo a patto di ritirare la costruzione del parco acquatico. Nel frattempo Yzma si autoproclama imperatrice ed è convinta che Cuzco sia morto, ma in realtà verrà a sapere dal suo ingenuo aiutante Kronk che è ancora vivo e che si trova al villaggio. Nel frattempo i due protagonisti verranno inseguiti da Yzma, ma fra di loro nascerà un'amicizia che permetterà a Cuzco di diventare molto più maturo e meno egoista. Alla fine Cuzco riesce a ritornare al castello e durante una rocambolesca lotta con Yzma a suon di pozioni, alla fine l'imperatore riesce ad avere la meglio e Yzma viene trasformata in un gatto. E Cuzco finalmente ritorna a governare con molta più saggezza e diventerà molto più amichevole con il popolo che prima non considerava. Il film all'inizio era stato pensato come un musical, che aveva una trama molto simile a quella del Principe il Povero, ma dato che poi i tempi si erano fatti molto ristretti e anche i costi di produzione erano molto alti, la Disney diede un ultimatum ai registi, che decisero di mantenere questa storia però trasformandola in un cartone animato e rendendola molto più comica. Infatti il design dell'animazione è molto semplice, perché i tempi erano molto ristretti. Quindi possiamo vedere appunto che è molto diverso dai precedenti classici Disney, che avevano un design comunque molto più dettagliato. Ma ciò non fu un difetto, perché i personaggi erano molto molto carismatici, e come film ha avuto un discreto successo proprio grazie all'iconicità e alla simpatia dei personaggi. Tra l'altro le figure antagoniste, come Yzma e Kronk, sono diventate quasi una spalla comica all'interno del film. Il protagonista, Cuzco, è un antiprotagonista in realtà perché ha un'evoluzione da essere un personaggio molto antipatico a diventare un personaggio migliore. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.